Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Avete mai detto mi fa male alla testa? Il messaggio è chiaro, ma troppo generico e risulta essere poco efficace. Io credo che per venire a capo di questo problema bisogna lavorare di fine. I dettagli possono davvero fare la differenza e noi prenderemo proprio questa strada per aiutarvi, se qualcuno ancora non l'ha fatto per voi, a capire di che tipo di cefalea soffrite. Ci aiuteranno oggi due esperte che sono già in studio con me, la dottoressa Alicia Grazzi, neurologa, al centro cefalee dell'Istituto Besta di Milano, di cui è direttore il professor Bussone. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E abbiamo la dottoressa Fabia Schoss, che è psicoterapeuta, perché vogliamo affrontare il problema su due punti di vista che spesso sono complementari tra di loro. Allora, dottoressa Grazzi, il punto in cui avvertiamo il dolore alla testa può darci una prima indicazione, aiutarci a distinguere, ad esempio, un'emicrania da una cefalea muscolo-tensiva. Cito queste due forme perché sono le più frequenti. Senz'altro, sono le più frequenti ed effettivamente il punto di localizzazione del dolore può essere un segnale di una forma piuttosto che di un'altra, tanto che nell'emicrania è un dolore più localizzato che il paziente riferisce in una zona particolare e specifica del capo, mentre nelle forme tensive spesso è un dolore a casco che si diffonde a tutta la testa, anche più sordo e talvolta anche più sopportabile nella sua intensità, nel suo manifestarsi. Dottoressa Schoss, io sono molto contenta che lei sia qui con noi, perché spesso il mal di testa è proprio espressione di una, uso un termine molto generico, stanchezza. Esatto. Quando non ce la facciamo più, tante volte da noi donne ci sono state tantissime battute, barzellette, quanto il mal di testa viene usato come scusa, no? In realtà le donne spesso avvertono mal di testa più degli uomini e dietro a questo dolore ci possono essere tanti problemi, tanti dettagli che noi spesso trascuriamo. È proprio così. La nostra vita di donne è frenetica. Tra lavoro, casa, figli, non c'è tregua. Sia che i figli siano piccoli, e lì è veramente dura, sia che i figli siano grandi. Generalmente noi siamo il centro di una casa e quindi non possiamo dimenticarci di questo. E nel nostro lavoro non siamo il centro, dobbiamo arrampicarci molto, perché c'è molto più spazio per gli uomini che per le donne. Quindi è sempre un correre, è sempre una tensione. E è proprio quello di cui parlava la dottoressa Grazia alla fine. Cioè la tensione emotiva produce la cefalea più comune che c'è, che è quella muscolo-tensiva. Proprio chiusi in una morsa, ma naturalmente oggi andremo di fino, andremo nei dettagli, dove voi state pronte a raccontarci dove si localizza il dolore, quando lo avvertite e anche i segni, i sintomi che precedono l'attacco del mal di testa, che sia emicrania, la descriveremo nel dettaglio, sia invece che sia un'altra forma di cefalea, la più frequente è la muscolo-tensiva, questa sorta di casco dolorante che ci preme alla testa. Ne soffrono più gli uomini o le donne di questa forma, dottoressa Grazzi? Per quanto riguarda la forma che definirei di tipo tensivo, secondo anche i canoni della classificazione forse più corretta, c'è una prevalenza non così importante nelle donne come nelle forme emicraniche. Nelle forme emicraniche c'è un rapporto di 3 a 2 con un disequilibrio e una netta prevalenza nel sesso femminile. Per quanto riguarda le forme tensive è meno prevalente, anche se è comunque un po' più prevalente, insomma. Allora, state pronti a raccontarci il vostro mal di testa, dateci delle informazioni che riguardano il tipo di dolore, se fisso, irradiante, pulsante, la frequenza degli attacchi, la loro durata. Voi chiamateci 824 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666, noi vi aiuteremo a scoprire la vera natura del vostro dolore. Una mela al giorno. profumo di casa. Una volta, se vi ricordate, era quello della torta di mele della nonna. Oggi invece sa di arancia, violetta, magnolia, vaniglia, sandalo. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ad ogni ambiente la sua profumazione. Merito di candele, incensi, diffusori elettrici o a pile, spray. Ma per usarli bene abbiamo chiesto un aiuto al professor Domenico Cavallo, professore associato di medicina del lavoro dell'Università dell'Insubria di Como. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, con lei cercheremo di dare un po' le istruzioni per l'uso e consigli pratici su come orientarci nelle nostre scelte. Allora, partirei dalle candele, che sono così belle, fanno così atmosfera e sono anche profumate. Come sceglierle? Ma dunque, intanto usarle sicuramente in ambienti dove è possibile anche assicurare un sufficiente ricambio d'aria, cioè evitare l'accumulo di sostanze odorigene che ad elevate concentrazioni possano provocare effetti di sensibilizzazione. Poi l'altra cosa è usarne in una quantità e con una frequenza adeguata. Quante ore possiamo tenerle accese? Ma evitare di tenerle in ambienti dove si permane per più di 2 o 3 ore, quindi sicuramente non nelle camere da letto, si possono utilizzare tranquillamente nei soggiorni, nelle sale. Senta, le stesse regole valgono per gli incensi o ci sono delle raccomandazioni in più da fare? L'incenso dà luogo a un rilascio di particelle ultrafini, quelle che noi vediamo visivamente come quel fumino bianco che esce, senza peraltro creare concentrazioni forti di sostanze che si liberano dalla fiamma. Perché quindi mi scusi professore, lei che è un esperto, tra candele e incenso lei che cosa usa? Ma io cerco di usarne non tantissime di entrambi, ma con un giusto equilibrio, quindi l'incenso lo userei prevalentemente in un ambiente un po' più ampio della candela, proprio perché si evita di avere questa fiamma visibile, quindi non si può controllare, e in secondo luogo diciamo l'incenso non dà quei pericoli legati alla fiamma vera e propria, quindi un giusto equilibrio, si possono usare entrambi con un adeguato dose di buon senso. Senza esagerare. Senta professore, invece i diffusori elettrici o a pile sono indicati per quale tipo di locali? Poi solito si lasciano lì e funzionano per ore e ore. Sì, sono un'alternativa alla combustione, diciamo che prevedono un riscaldamento elettrico un pochettino più controllabile e soprattutto possono essere programmati, quindi è possibile accenderli e spegnerli a volontà. Quante ore secondo lei potremmo beneficiare? Io direi anche in questo caso di dare periodicamente con una frequenza non eccessiva, quindi non più di 1 ora, 2 ore al massimo, e poi lasciare ricambiare l'aria in questo caso. Senta, facciamo proprio un flash sugli spray, sono così comodi, soprattutto magari quando è rimasto qualche cattivo odore in cucina, molte persone spruzzano un po' di spray proprio per avere un'aria più profumata, un pronto intervento insomma. Vantaggi e svantaggi dello spray? Ecco, lo spray hanno il grosso vantaggio di avere un immediato rilascio di sostanze odorigene, quindi di poter dare da subito l'effetto desiderato di copertura dell'odore sgradevole che noi vogliamo coprire. E ovviamente anche nel caso dello spray bisogna evitare di usarli, se non in casi eccezionali, nei posti dove non ci sia la possibilità di ricambiare l'aria, quindi gabuzzini, bagni senza ventilazione. In questi posti invece vanno meglio quali deodoranti? Possono andare bene più o meno tutti, direi possiamo mettere tranquillamente anche qui o un incenso, una candela o un diffusore elettrico, sempre con attenzione alla frequenza e alla durata d'uso dello stesso. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci dato qualche indicazione, però volevo segnalare ai nostri ascoltatori l'articolo di Star Bene, proprio nel numero in edicola parla di tutti i spray, tutti i deodoranti che possiamo utilizzare per profumare la nostra casa. Professor Cavallo, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Pronto soccorso. Mal di testa, ne soffrono circa 9 milioni di italiani. Questo dato tira un po' sul morale a chi ne soffre, no? Mal comune mezzo gaudio, ma non basta. E perché molte delle persone che soffrono di mal di testa non ricevono una diagnosi adeguata, corretta. E spesso chi soffre di mal di testa preferisce autogestirsi, insomma prendere quella famosa pastiglietta per quando il dolore diventa insopportabile, per traghettare a momenti migliori. Però qua il rischio è davvero alto, se ne è parlato anche diffusamente in questo congresso internazionale che si è tenuto a Stresa. Dottoressa Grazzi. Beh, quella dell'automedicazione è un'abitudine abbastanza consueta, anche nei giovani. Purtroppo sempre più giovani tendono ad automedicarsi perché la mamma o il papà che soffrivano di mal di testa consigliano un prodotto piuttosto che un altro, il vicino di casa, la zia. Il rischio dell'automedicazione è di infilarsi in un circuito che poi diventa chiuso e un po' perverso del peggioramento e della cronicizzazione del mal di testa, quindi diventa poi difficile riconoscere un mal di testa per quella che è la sua vera natura, perché la diagnosi diventa confusa, e soprattutto impostare una terapia che poi possa essere efficace, perché una volta che si ricorre all'automedicazione quotidianamente, come succede a tantissimi pazienti che vediamo, il mal di testa in sostanza si riproduce in maniera inveterata quotidianamente, quindi diventa molto complicato uscire da questo circuito. Andiamo a Firenze, ci aspetta Guido all'800 24 00 24. Guido, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, in breve racconto questo mio episodio di cefalea ricorrente, ormai sono 2 anni, violentissima, in un minuto mi lascia totalmente stordito, incapace di reagire. Io sono andato ovviamente a fare una visita da un neurologo che mi ha diagnosticato una cefalea rombo di tuono, l'ho definita. Mi ha fatto fare risonanza magnetica con contrasto per escludere aneurismi e cose varie che non ci sono. Sì, e mi ha consigliato praticare l'acupuntura. Volevo sapere se è percorribile, se è valida questa strada, siccome è dovuta da artrosi cervicale, secondo il mio neurologo, questa cosa. Allora, l'artrosi... Grazie Guido. Guido è stato perfetto, vero? Ha descritto benissimo, tra l'altro, questa forma di cefalea che già dal nome ti fa un po' rombo. Ma è rarissima, è molto rara. È una entità clinica rarissima che non è così facilmente diagnosticabile. Direi che assolutamente non c'entra nulla col problema dell'artrosi cervicale, o perlomeno è difficile attribuire questo, direi, per molti tipi di mal di testa che vengono a volte erroneamente attribuiti all'artrosi cervicale. Questo è un po' un luogo comune che andrebbe un po' ridimensionato e sfatato. Allora facciamolo. L'aspetto dell'artrosi cervicale sulla base della presenza, per esempio, di un'ernia cervicale ha dei connotati clinici assolutamente diversi, con dei sintomi di dolore al braccio, di difficoltà nei movimenti degli arti superiori, quindi va un pochino ridimensionato questo aspetto. E va poi valutato anche da chi fa questo mestiere, il neurochirurgo, piuttosto che la cefalea rombo di tuono è un'entità clinica molto rara. Ci sono degli approcci che sono anche farmacologici molto specifici, di cui bisogna discutere caso per caso. L'aspetto e l'utilità dell'agopuntura va discussa anche questa caso per caso. A volte, in generale, l'agopuntura può essere efficace. In alcune forme di emicrania non mi risulta che ci siano studi che confermino l'utilità in questo particolare tipo di mal di testa, però sicuramente è una strada che può essere percorsa, anche perché non prevede l'utilizzo di farmaco e quindi può essere un'alternativa inizialmente utilizzabile. Siamo tornati insieme. Prima di tornare ad occuparci del nostro mal di testa, 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per intervenire, parliamo di un esame del sangue che permette di valutare l'aggressività del tumore. In linea con noi per spiegarci come funziona e quali risultati porterà la sua applicazione il professor Pier Giuseppe Pellicci, responsabile del Dipartimento di Ricerca dell'OIEO. Professor Pellicci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Professore, allora, parliamo di questo esame. Iniziamo a capire di che esame si tratta. Ma guardi, le descrivo rapidamente che cos'è il test. È una cosa concettualmente molto semplice. Tutti i tumori sono un po' come tutti i nostri tessuti normali, sono irrorati dal sangue. Succede che le cellule del tumore si sfaldano, sì, ed entrano in circolo. Quindi nel nostro sangue, indipendentemente da dove si trova il tumore, circolano delle rarissime cellule tumorali. Quindi il sangue è un po' la spia dei tumori. Ora, quello che stanno facendo i nostri ricercatori e anche altri ricercatori è quello di mettere a punto dei test che consentano di isolare queste cellule tumorali che circolano in sangue. Questo capisce che ci permette di accedere al tumore da un prelievo di sangue senza andare direttamente al tumore, che richiede biopsie, interventi chirurgici, eccetera. Questo ha due grossi vantaggi. Innanzitutto la possibilità di studiare il tumore in maniera non aggressiva e secondariamente quello di seguire il tumore dopo i trattamenti andando a cercare segni del tumore direttamente nel sangue. Quello che si sta scoprendo, per esempio, è che quei tumori che non rispondono bene al trattamento mantengono queste cellule tumorali nel sangue, e questa è un'indicazione straordinaria che orienta il trattamento. Professore, quindi stiamo parlando di un esame molto semplice, quale sarà il futuro? Ma guardi, in questa fase siamo nella fase di sperimentazione, cioè è vero che esistono cellule del tumore nel sangue, è vero che si possono purificare e studiare. Quello che adesso dobbiamo rispondere con certezza è che sia utile studiarle per orientare il trattamento. I primi risultati sono sicuramente positivi, se verranno confermati dalle sperimentazioni, quello che ha di straordinario questa tecnica è che è semplice, per cui potrà essere usata da qualsiasi ospedale. Professore, io la ringrazio per essere intervenuto, soprattutto per la sua chiarezza e il suo lavoro. Le auguro una buonissima giornata. Tra l'altro oggi all'OIEO è una giornata particolarmente importante. Festeggiate quanti anni? 15 anni. 15 anni, quindi compleanno. Un compleanno, tanti auguri allora all'OIEO alla ricerca. Mille. E buona giornata a tutti. Anche a lei, buona giornata. Torniamo ad occuparci del nostro mal di testa. Importante è capire anche quando vi viene mal di testa. Dottoressa Schoss, ad esempio, il nostro ascoltatore che ha chiamato per un mal di testa molto particolare, rombo di tuono, così l'ha definito dottoressa Grazzi, giusto? Ecco, sarebbe importante per lui, ma penso anche per tutti noi che soffriamo abitualmente, occasionalmente di mal di testa, legare e capire anche quando si scatena l'attacco. Perché, dottoressa Schoss? Perché in generale il dolore è legato alla tensione. Allora, capire se è successo la tensione è legata all'emotività. Quindi capire quello che ci ha teso. Faccio un esempio banale. Se stiamo attraversando la strada e una macchina ci sta venendo addosso, qual è la nostra reazione? Noi abbiamo paura, prendiamo paura, certo, e siamo tesi dalla testa ai piedi. Cioè la tensione emotiva arriva su di noi in maniera assolutamente incontrollata. In quel caso ce ne possiamo accorgere, ma mediamente durante i nostri giorni normali noi non ci accorgiamo della tensione che abbiamo. E non che pensiamo, si stratifica. Che si stratifica in maniera molto profonda, arrivando quasi al livello cellulare, cioè tutto il nostro corpo si tende, e se la tensione procede senza che noi ce ne rendiamo conto, cioè nella totale inconsapevolezza di quello che ci capita, è molto difficile evitare che ci sia una somatizzazione, e il mal di testa può essere una somatizzazione della tensione, soprattutto il mal di testa muscolo tensivo. Questo che abbiamo se definito invece come pensiamo una sorta di casco a questo giovane di Firenze con questa diagnosi così spaventosa per il nome, mi sarebbe piaciuto chiedergli: quando ti è venuto la prima volta? Cosa ti era successo in quel periodo della tua vita? Quindi un dettaglio sicuramente importante da tenere in considerazione. Dottoressa Grazzi, anche lei come neurologa lo tiene come una variabile importante nella diagnosi? È una variabile importantissima, e direi che la cosa proprio più importante in una situazione, in tutte le situazioni di tipo medico e clinico, ma soprattutto in questa situazione, è proprio la raccolta dei dati e il cercare di insieme al paziente di essere il più come dire, precisi possibili per capire quando è venuto la prima volta il primo attacco di mal di testa, come si è manifestato, quando ricorrono gli attacchi, il modo in cui il dolore si manifesta, se per esempio riesce a continuare a svolgere le sue attività o se è così inabilitato da dover rimanere nel letto senza riuscire a fare nulla e così via. Dottoressa Schoss? Ma mi piacerebbe dire una cosa. Spesso nel ricorrere del dolore, il mal di testa è soprattutto un grande dolore, una parte della tensione ha a che fare con la nostra incapacità di sopportarlo, cioè di sopportare di averlo. Sì. Cioè il dolore è una cosa brutta per tutti, questo è chiaro. Ma quando noi pensiamo che non lo vogliamo, facilmente inneschiamo un meccanismo per cui la tensione aumenta e il dolore aumenta e quindi aumenta l'assunzione dei farmaci. Che abbiamo visto che è quello che di peggio possiamo fare per finire ingabbiati in questo dolore da cui spesso anche il medico ha difficoltà a farci uscire. Andiamo ad Alfredo che ci chiama da Napoli, che abbiamo ripescato. Alfredo, buongiorno. Salve, buongiorno. Eccoci. Allora, io ho 29 anni e soffro con i mal di testa praticamente da sempre, da quando ero piccolino. E faccio parte di quegli italiani che praticamente non è mai andato dal dottore per questo mal di testa e usa le solite bustine medicinali per farsi passare questo mal di testa. Infatti la cosa strana che volevo chiedere, quando mi viene questo mal di testa lancinante, una parte specifica della testa, io ho tentato anche di addormentarmi la sera, ma la mattina è ancora più forte. Cioè, se non uso queste medicine, a me non passa questo mal di testa. Quindi senza pastiglietta Alfredo non riesce a venire a capo del suo problema. Dottoressa Grazzi può aiutarlo a lei sicuramente. Alfredo ha una storia molto lunga, bisognerebbe capire come mai è arrivato il mal di testa in un'età così giovane, perché lui riferisce da di quando averlo era piccolo. Sin da bambino. Può essere che ci fossero degli aspetti proprio anche di predisposizione ad avere o a sviluppare una forma emicranica e magari qualche attacco nell'infanzia ci può essere. Quello che spaventa un po' è il fatto che nel caso del signor Alfredo poi il mal di testa sia andato perseverando e addirittura peggiorando. Non è mai andato dal medico? Lui non si è mai fatto vedere da nessuno, però ha continuato ad usare farmaci e questo probabilmente potrebbe essere anche la causa del continuo peggioramento del suo mal di testa, che in questo momento potrebbe avere delle caratteristiche variabili, potrebbe essere sia una forma emicranica come originato da piccino, con una sovrapposizione di un altro tipo di forma che è quella di tipo tensivo, con magari anche un aspetto emicranico dovuto al fatto che usa molti medicinali. Siamo tornati insieme, abbiamo Cinzia che ci chiama da Grosseto. Buongiorno Cinzia. Buongiorno, mi sente? Io la sento bene, lei come sta? Allora, volevo fare una domanda. Siamo qua. Dunque, siamo due sorelle, praticamente abbiamo ereditato dalla nonna il mal di testa. Sì. Volevo sapere due cose. La prima, se possono l'emicrania può dare sindrome vertiginose. Sì. E la seconda, come mai è sempre associata alla nausea? Grazie Cinzia. Dottoressa Grazzi. L'attacco emicranico a volte è associato a una sensazione vertiginosa, soprattutto quando è violento. Non è che automaticamente dà la vertigine, però ci può essere questa associazione in alcune situazioni. È un segnale d'allarme? Tanto può che abbiamo anche detto non che... essere necessariamente un segnale d'allarme, perché può essere un'associazione di un sintomo particolare che si unisce al dolore. Il secondo sintomo importante è la nausea e spesso il vomito importante. Sia l'aspetto vertiginoso che la nausea fanno parte di quella messa in disordine del nostro sistema nervoso vegetativo, che è un po' quella parte del sistema nervoso che regola anche la nostra vita emotiva. Per cui la vertigine, a volte la necessità di andare in bagno più spesso, la nausea, il vomito, il raffreddamento delle estremità, sono tutti dei sintomi che si associano, che si possono associare comunemente a un attacco emicranico e che quindi possono anche che non sono così preoccupanti e per i quali a volte le pazienti che arrivano da noi hanno già fatto numerose tutto. Gastroscopie, esami anche non particolarmente simpatici, ma perché erroneamente il mal di testa viene attribuito a un problema digestivo e invece no, è proprio che il sommovimento gastrico è da attribuire alla crisi emicranica. Voglio salutare la dottoressa Valentini che ci ha raggiunto, neurochirurga Albesta. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Dottoressa, voglio far subito lavorare anche lei, così sollevo un po' anche le mie due ospiti. Abbiamo detto che avremmo citato quali sono i segnali che ci devono far capire che il nostro mal di testa, anche se per noi è una compagnia abituale, lo conosciamo bene, sta cambiando e ci avverte che dobbiamo andare dal medico per conoscerlo un pochino meglio. In realtà il mal di testa che è legato a cause importanti, a cause neurochirurgiche, è normalmente un mal di testa molto diverso dai mal di testa comuni. Difficilmente è un mal di testa cronico, più facilmente è un mal di testa acuto e anche nei pazienti che vengono seguiti da tanto tempo per problemi di cefalea c'è una variazione della qualità dei sintomi che li porta a chiedere comunque l'aiuto del medico. Mi faccia un esempio per favore. Tipicamente il mal di testa da aumentata pressione intracranica è un mal di testa che avviene la mattina, che si accompagna a nausea, a vomito e si accompagna spessissimo a disturbi neurologici, quindi a una difficoltà motoria, a dei problemi di tipo anche nella vita di tutti i giorni. Oppure il mal di testa legato a patologie vascolari è un mal di testa acuto che insorge come una pugnalata, quindi sì, ci spinge. Quindi è impossibile non accorgersene. È un mal di testa che normalmente è ben definibile, ben differenziabile rispetto alle altre forme di cefalea. Andiamo a Franco che ci chiama da Pisa. Buongiorno Franco, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io volevo esporre un problema che non riguarda me, ma riguarda la mia compagna. Sì. Lei ha 48 anni e soffre da almeno 8 anni di mal di testa nel periodo del ciclo. Sì. Normalmente sono i giorni che precedono il ciclo. Sì, un problema molto frequente questo, abbastanza diffuso, dottoressa, grazie, vero? Sì, di solito sono delle forme sempre emicraniche che facilmente si manifestano in quel momento dove l'assetto, il nostro assetto ormonale cambia. L'emicranico è un soggetto in generale che con una certa difficoltà si adatta facilmente ai cambiamenti. Tutti i cambiamenti, sia esterni sia quelli che si verificano all'interno del suo organismo. Il momento del ciclo mestruale per la donna è un momento di cambiamento nell'ordine ormonale, per cui questo in un soggetto predisposto può indurre facilmente l'attacco di emicrania. Dottoressa Schoss, ci dia qualche indicazione per soprattutto per chi, per le donne che soffrono di emicrania, ma ne soffrono anche gli uomini e hanno una tipologia particolare, per riuscire così a vivere il cambiamento in modo un pochino più soft, senza avere male. Ci sono delle indicazioni pratiche? Allora, la prima cosa, secondo me, è cercare di fare un po' di attività fisica. Sì. Cioè la tensione, di cui parlavamo prima, la tensione emotiva, che è la base del dolore, in qualche maniera deve essere buttata fuori. Allora, un giro di corsa, per esempio, sì? Un piccolo giro di corsa ogni giorno, 10 minuti, un quarto d'ora, può già essere un buon lavoro fatto. Non sto dicendo che queste persone che stanno male debbano andare in palestra e fare ore e ore, ma pensare a una cyclette, a un giro appunto di corsa o a passo veloce. Quello che conta è che batta un po' il cuore. E e per scaricare un po' le tensioni. Io invece, dottoressa Valentini, vengo a lei a proposito di tensione, ma direi allarme. Noi sono contenta che lei sia qui, perché avevamo dedicato una puntata in cui parlavamo di mal di testa dei bambini alla malformazione di Chiari, che adesso è tornata nei giorni e le settimane scorse di attualità con un fatto di cronaca, e questo ha generato molto allarme tra i genitori di bambini che sono affetti da questa malformazione, che pur essendo non ha grandi numeri, però c'è. Dottoressa Valentini, spendiamo pochi minuti per tranquillizzare i genitori all'ascolto. Sì, questa malformazione è una malformazione che si può presentare con una cefalea di tipo cronico. L'allarme è nato a proposito di una ragazzina di cui è stato riportato un evento in Fausto dovuto proprio alla malformazione, è stato definito, ma in realtà non è legato tanto alla malformazione quanto a una altra malformazione associata, che è il disturbo della circolazione liquorale, cioè l'idrocefalo. E in realtà la possibilità che questa malformazione arrivi a dare quadri letali è praticamente impossibile se viene correttamente diagnosticata e trattata. E quindi è importante che i genitori dei ragazzini che sono affetti da questa patologia, scoperta sempre più frequentemente come mediante la risonanza magnetica, siano tranquilli se il loro bambino viene diagnosticato e viene trattato correttamente. Allora, per ogni informazione, approfondimento, noi possiamo invitare i nostri ascoltatori da casa a scriverci a essere benessere@radio24.it. Io spero che questa trasmissione, dove volutamente non abbiamo parlato di terapia, convinca tutte le persone che soffrono di mal di testa a non automedicarsi. Questo è il concetto che mi piacerebbe, mi auguro che sia passato, e soprattutto prima di fare ricorso ai farmaci, che devono essere comunque prescritti dal curante, come invitava la dottoressa Schoss, provare ad occuparci un pochino di più di noi stessi, scaricare quelle famose tensioni che si accumulano senza che noi ce ne accorgiamo e che alla fine procurano danni. Noi abbiamo una parte di possibilità per scaricarle, mettiamole in atto. Ringrazio le mie ospiti che mi hanno aiutato ad affrontare un tema così, in parte così delicato, perché chi soffre di mal di testa sembra sempre un po' rassegnato, e spero di poterle avere presto di nuovo qui. Intanto grazie a voi, io vi saluto, come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Per qualunque dubbio, domanda, aiuto, scriveteci. A domani.